Dirti mo per Sonny primogenito, postumi una stronza, mixtape. Per il 2009 da Pescara. Dirti Money, prossima uscita il disco. Com'è? Che si dice? Postumi di una stronza, noi abbiamo postumi di una stronza. Postumi di una donna, postumi di tutto, postumi della ganja. È stato un seratone come al solito. E ti salutiamo così, con i posti. Dirti Money da Pescara, quando è che torni a trovarci? Qua ti portiamo a ballare alle dancehall, ti portiamo a vedere le signorine che perreano il reggaeton, quando vuoi. Mi alzo, metti un altro elmetto, ci sta di soldato in campo. Vado fumando, la mia squadra gira in cerchio. Dirti Money, Davidone, più reparto e Gio Fumetto.